le caratteristiche tecniche, il rapporto qualità-prezzo? Ma in realtà sulle televisioni no, lascio scegliere a lui perché io non me ne intendo, quindi mi fido. Cerco di prendere informazioni da internet, giornali, eccetera. Quindi poi quando vado in un negozio sono quasi sempre già ben determinato su cosa, dove, come, quando. Amo prepararmi prima, insomma. Ma lei sa cos'è un televisore LCD? No, decisamente non lo so. È un televisore 3D? Neanche, guardi, io sono proprio fuori fase completamente. Non so. Preferisco che sia un buon televisore, senza tanti accessori, tanto non è che mi interessa. E secondo lei qual è la caratteristica di un buon televisore, visto che è un mercato che sta cambiando molto in fretta? Beh, che sia, ma diciamo che la visione sia non stancante, che i colori siano normali, cioè naturali, e che anche la persona non sia schiacciata, non ingrassi, non schiacci, perché adesso io vedo che le televisioni tutti sembrano tutti piccoli e grassi. Per esempio questi due sembrerebbero uguali, ci sono 200 euro di differenza. Ma tu la compreresti una Connected TV? Non so cos'è. E in HD cosa puoi guardare? Oh bella, non ho idea. Signora, ma dicono che sono le donne che scelgono il televisore a casa, è vero? No, l'uomo. A casa mia, lui. E in base a cosa lo sceglie? Il prodotto, la marca, la qualità dell'immagine, il prezzo. Anche perché è bello e poi soprattutto se sta bene nel mio posto dove lo devo mettere. Cioè, gli ho chiesto se poteva fare tutto ciò che uno chiede, se c'era la, come si dice, l'extraterrestre lì, quelle cose lì. Mi interessa quelle 3D, del prezzo. Lo schermo piatto. Ma tu lo sai come funziona un televisore in 3D? Non proprio, cioè. E invece l'HD? No. E l'LCD? Neanche. In base a quali criteri la sceglie? Al design, solo quello. Prezzo? Devo essere sincera? Beh, per prima cosa guardo il prezzo, poi comunque la qualità. Non ho sempre le idee chiare, di solito chiedo. Alla fine comunque scelgo quello che avevo in testa. Invece per quanto riguarda la TV che si connette a internet, vi interessa? Interessa, sì. Ma esiste?